Blue Zone, incontro con gli europarlamentari. Bentrovati agli ascoltatori di Radio 24, da Silvia Bernardi. Si parla spesso del rapporto speciale USA-Europa, in primis con il partenariato transatlantico. Gli arsenali legislativi di entrambe le parti sono elementi cruciali. Da una parte il Parlamento europeo e dall'altro le due Camere del Congresso a Washington. Facciamo un confronto tra le due con lo storico Vincent Morelli del Congressional Research Service. Non parlerei di differenze significative di potere tra le due parti. Sono istituzioni uniche nel loro genere, con proprie debolezze e punti di forza. Ma ci sono differenze nel tipo di potere legislativo e di iniziativa. Il Congresso nacque dalle ceneri della guerra di indipendenza nel 1774. Fino ad oggi le due Camere, la Camera dei rappresentanti con 435 membri e il Senato con 100 membri, sono state dominate dal Partito Repubblicano. Il Parlamento europeo è composto da un'unica Camera, sorta dalle ceneri della Seconda Guerra Mondiale. Ospita 7 grandi gruppi politici dai 28 Stati membri dell'UE, con 751 membri, ed è suddiviso in centro-destra, centro, centro-sinistra. A grandi linee il potere è suddiviso così: al Congresso il bilancio federale, politica estera, riscossione delle tasse, nomina delle grandi cariche e destituzione del presidente tramite impeachment. Il Parlamento europeo ha poteri decisionali e di veto in materia di bilancio, elezioni della Commissione e poteri di supervisione. Non propone leggi né aumenta le tasse e ha un potere consultivo solo in politica estera. Ogni membro del Congresso può presentare un nuovo testo di legge, mentre l'Europarlamento deve aspettare le proposte della Commissione. Un caso interessante è stato il TTIP, il patto transatlantico per il commercio e gli investimenti, sul tavolo dei negoziati tra Commissione europea e USA. Il Parlamento non è coinvolto direttamente nei negoziati, questo è stato comunque un esempio di negoziato commerciato a porte aperte o almeno socchiuse. Il rappresentante repubblicano del Congresso, Erik Poulsen, definisce così il Parlamento europeo. Parliament plays a role reflecting public opinion, making sure the commission is on track to follow certain negotiating guidelines. Rappresenta l'opinione pubblica e si assicura che la Commissione rispetti certe linee guida dei negoziati. Succede lo stesso nel Congresso, consigliando il Presidente. Gli Stati Uniti lavorano in modo diverso rispetto all'Unione Europea, non c'è dubbio, ma ci sono più somiglianze che differenze con l'Europa nell'implementazione della democrazia, e questo dovrebbe essere l'aspetto più importante. Le rispettive Camere sono attive in un dialogo, ascoltando si avvicenda. U-Zone, incontro con gli europarlamentari. In collaborazione con Euronet Plus.